Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Potrete scaricare tutte le puntate in tempo pressoché reale o ascoltarle con calma la sera, il pomeriggio, quando siete più comodi, soprattutto quelle come la mia trasmissione, che va in onda la mattina presto, come voi sapete. Potete dialogare con i giornalisti che hanno un blog, il mio lo conoscete ormai da tempo, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate su radio24.it o sull'homepage del Sole 24 Ore. Ultima informazione di servizio, la più importante, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it, mail che è stata raggiunta da una splendida lettera di padre Marcello Storgato. Allora, come sapete, dal 1 aprile sono state soppresse le tariffe agevolate postali per tutta l'editoria italiana, quotidiana, periodica, via le agevolazioni. Ora, il decreto che ha fatto scomparire queste agevolazioni dice: ma poi noi correggeremo in un momento successivo, quindi vale a dire probabilmente con una circolare interpretativa o comunque con un nuovo decreto, per vedere se effettivamente c'è qualcosa da ritoccare, se si colpisce nel mucchio come spesso accade in Italia. E questo purtroppo accade davvero. E perché infatti padre Marcello Storgato ci ha scritto? Perché lui dirige un mensile che si chiama Missionari Saveriani. Allora, rappresenta non soltanto se stesso, ma rappresenta 19 edizioni locali, 90.000 copie distribuite per spedizione postale. La vita di queste riviste vuol dire dialogo, dibattito, vuol dire informazione, vuol dire cultura. Cancellazione quindi di tariffe, non voglio entrare nel merito di chi se li merita o meno, ma che colpiscono anche chi purtroppo non ha facilità nel reperire risorse, e anche un solo centesimo tolto mette a rischio la vita e la sopravvivenza di una voce, e ogni voce che viene soppressa nella stampa e nell'informazione è un momento di morte per la democrazia. E io ne parlo con chi? Ma con padre Marcello Storgato innanzitutto. Buongiorno padre Marcello. Buongiorno. E poi ne parlo con un altro collega, Riccardo Bonacina, che è direttore di un magazine molto noto, molto conosciuto, che è Vita. Buongiorno Bonacina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da lei, padre Marcello. Che cosa vuol dire per voi questa cancellazione, questa riduzione delle agevolazioni tariffarie, appunto? Ma io parlo, insomma, in collegamento con la FESMI, che è la Federazione delle Riviste Missionarie in Italia, che raccoglie moltissime testate. Io sono solo una di queste. Certo. Sono riviste, per lo più mensili, che hanno una consistenza notevole, soprattutto per tutto quello che riguarda i paesi del primo, secondo e terzo mondo, dove i missionari lavorano e quindi sono testimoni diretti di situazioni culturali e di informazioni che vanno passate al nostro grande pubblico. E quindi nella situazione di informazione attuale, di comunicazione attuale, mi sembra che il nostro ruolo, pur piccolo che sia e povero di mezzi, ha un significato e una importanza fondamentale. Almeno noi ci crediamo e ci credono anche i nostri lettori e sostenitori, ma siamo insieme anche all'USPIL, l'Unione Stampa Periodica Italiana, siamo insieme anche alla Federazione degli Editori Medi e Piccoli, insomma, siamo in collegamento con Vita. Certo, certo, ma infatti adesso ci arriveremo. Io volevo fare una domanda, ecco, so che magari sarà difficile anche quantificare il numero di lettori che hanno le pubblicazioni che aderiscono alla vostra associazione, alla Federazione della Stampa, sì, Missionaria Italiana, ma un ordine di grandezza lei riesce a individuarlo? Arriviamo, se lei considera che solo noi come missionari saveriani arriviamo a 90.000 copie distribuite, e missionari del PIME ne ha circa 70.000 e via dicendo, arriviamo a un 300.000 copie perlomeno, il che significa che arriviamo senz'altro a oltre 1 milione di lettori. Bene, allora le faccio una domanda proprio, come dire, a me piace dialogare molto con le persone alla radio come se fossimo intorno ad un tavolo. Domanda da $1 milione, padre Marcello: quanto tempo vi rimane ancora di vita se fosse confermato questo decreto con questi aumenti? Comunque aumenti medi che oscillano tra il 100 e il 500% per ogni singola spedizione. Guardi, i calcoli sono presto fatti perché insomma ci fanno adesso passare alla tariffa piena, che significa 0,283 centesimi per copia che viene spedita. E questo risulta un aumento da un minimo di 200% a un massimo di 700% dei costi attuali. Quindi noi, come si dice degli allenatori di calcio, voi correte il rischio di non mangiare il panettone, e con voi i vostri lettori. Sì, perché noi calcoliamo che con 90.000 copie in un anno verremmo a spendere oltre 150.000 euro in più solo per la spedizione. Ecco, poi c'è tutta la stampa. Certo, certo, certo. Ecco, sono circa 300 milioni delle vecchie lire. Allora, io francamente rabbrividisco di fronte a questa ipotesi, perché veramente c'è modo e modo per uccidere la stampa e l'informazione. Questo probabilmente è uno dei tanti modi di farlo. Allora, abbiamo chiamato in causa Vita. Vita si è fatto portavoce di, diciamo così, di organizzare un po' un appello contro questi tagli che appunto sono una mannaia indiscriminata, soprattutto per chi vive di questo, per le organizzazioni non profit. Allora, Bonacina, quante possibilità ci sono che arrivino delle correzioni in corsa e che quindi queste voci, la vostra e quelle di cui stiamo affrontando, continuino ad esserci anche nei prossimi mesi? Ma diciamo così, allo stato attuale ci vogliamo credere che arrivino prima o poi delle correzioni, perché veramente si tratta di un sopruso organizzato, diciamo senza alcuna comunicazione, con gli invii in corso sia per quanto riguarda le riviste, anche le riviste missionarie, sia per quanto riguarda i mailing delle associazioni. Ecco, per il settore Onlus e non profit è un aggravio complessivo di 65 milioni di euro, quindi diciamo parliamo di cifre assolutamente rilevanti, tra l'altro in un periodo in cui, diciamo, come si sa, c'è la dichiarazione dei redditi e quindi c'erano le comunicazioni sul 5 per 1000, quindi quello che certo lo Stato sta dando per il 5 per 1000, concedendolo, se lo ripiglia diciamo con l'altra con gli mano, interessi. Ecco, con gli interessi. Quindi diciamo ci deve, io penso, voglio credere che sia così, che a brevissimo voglio dire, ci sia un'iniziativa politica. Ma interlocutori voi ne avete incontrati? Avete trovato qualcuno? In Parlamento stanno raccogliendo firme in maniera bipartisan, diciamo, stiamo aspettando risposte dal Ministro dello Sviluppo Economico, diciamo, da cui dipende questo famigerato decreto interministeriale. Stiamo aspettando risposte dal ministro Sacconi, che diciamo ha in carico la politica sociale anche di questo paese. Per ora io, diciamo, più o meno due volte al giorno anche noi col redattore, insomma, cerchiamo di tempestare di telefonate chi di dovere, e speriamo che entro stasera, domani, qualche notizia arrivi, perché veramente insomma non certo, si ha parole, o certo, oppure si hanno brutte parole. Ecco. Sì, ecco, ma Bonacina, spesso a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, diceva una persona 100.000 volte più importante di me. Ma tu ci credi che c'è stato, come dire, una volontà cattiva, come si direbbe nel diritto penale, di colpire, oppure proprio è semplicemente, come dire, ma forse negligenza nella migliore delle ipotesi, o non conoscenza nella migliore delle ipotesi? Io penso che ci sia stata cattiva volontà, sinceramente, perché Non si è mai visto un decreto che, diciamo, è stato scritto e firmato il 30 marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta all'indomani, che è già un tempo record, e che diventa operativo il giorno dopo, no? Quindi certo. 30, 31, 1 aprile, tra l'altro, lasciamo perdere ogni pensiero sui pesci d'aprile. Ecco. Certo, sì, un cattivo pesce d'aprile. Allora, vediamo che cosa succede nei prossimi giorni, quindi continueremo ad avere questi o altri interlocutori per tenere viva l'attenzione su un tema che riguarda le voci che padre Storgato ha detto piccole e minori. No, non sono né piccole né minori, sono voci libere che portano tessere nella cultura di questo benedetto e maledetto paese al tempo stesso. Grazie a padre Marcello Storgato, a Riccardo Bonacina, direttore di Vita, in regia a Fabio Cantadori e in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.